frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. E un ben ritrovati, un ben ritrovate a tutte e tutti a una nuova puntata di Frequenze Sui Generis. Oggi in studio siamo in tre, oltre a me c'è Mari e abbiamo un ospite. È in studio con noi Porpora Marcasciano, presidente onoraria del MIT, Movimento di Identità Transessuale, sociologa e attivista. Ciao Porpora. Ciao. Allora, rubo subito la scena a Porpora perché, come in ogni puntata, partiamo immediatamente col presentarvi gli artisti che ci accompagneranno oggi, scelti sempre dalla nostra Giulia. La nostra Giulia per oggi ci propone The XX, che sono un gruppo indie rock britannico che debutta nel 2009 con un primo album curato e perfetto dal nome omonimo del gruppo, appunto XX. Lo stile ricorda un elettropop melodico ad un primo ascolto, ma grazie a un mix di elementi esplosivi mantiene sempre un profilo molto alto e di grande eleganza. Questo avviene grazie ad accurati mix musicali e alla presenza di basi elettroniche che offrono un background sonoro alle voci di Romy Medley Croft e Oliver Sim, che cantano appunto in un duetto delicatissimo dallo stesso timbro ma dalle differenti intensità. Il risultato è quello di un'atmosfera rilassante e avvolgente, un sound crepuscolare ma con una punta di frizzante irrequietezza giovanile. Singing, oh, I'm gonna tell you, oh, how I tell you, I'm in love with it, intoxicated. Rientriamo in studio sulle note degli XX, oggi parliamo di un tema piuttosto attuale, parliamo di transfobia e di femminismo. Ora, l'Italia ha il triste record in Europa di omicidi di persone transessuali e transgender, 30 dal 2008 al 2016, secondo il rapporto mondiale 2016 sulle vittime di violenza transfobica. Quindi Porpora, ci aiuti a capire cos'è la transfobia e da cosa è caratterizzata? Allora, la transfobia è una tendenza culturale, direi, e a mio avviso quindi politica, perché le due cose non sono scisse. Siccome l'Italia ha il primato di violenza e omicidi di persone trans, ma anche di donne, quindi io la riporterei, per facilitarci nella comprensione, a una questione di genere. E il genere è una categoria, è una, un qualcosa che ha aspetti culturali, socioculturali. Quindi, siccome il genere nel nostro mondo è maschile e femminile, e quello maschile è quello predominante, questo genere, diciamo, vuole prevalere sull'altro e non accetta le altre sfumature. L'ho resa molto molto semplice la questione, ma di questo si tratta. Quindi il nostro mondo, la nostra società, la nostra cultura è una cultura molto molto escludente, dove se non si rientra appunto nelle categorie binarie e tutto il resto è spurio, bastardo, ecco, voglio usare i termini forti, che va annullato, va negato, va cancellato, va soppresso. Momenti storici in cui questa cosa si allenta ma non sparisce, e momenti in cui invece si acuisce, diventa forte e diventa pericolosa, ecco. Io ho la sensazione, e forse molto più di una sensazione, che siamo entrati in una fase storica in cui si sta acuendo, c'è cioè un picco di chiamiamola transfobia, ma di razzismo, di violenza proprio in generale. Una volta dicevamo fascismo, ecco, oggi il termine è poco declinato, fuori moda, però di questo si tratta. Ecco, tu parlavi, hai richiamato il concetto di genere, e oggi si parla molto di linguaggio di genere. Quali sono gli errori da non fare nel linguaggio e in generale gli errori da non fare nel relazionarsi con le persone trans? Ma intanto quello che dico io è sempre uscire dalla paura e dall'imbarazzo di sbagliare, ecco, perché quella paura e quell'imbarazzo, come dire, non mettono a proprio agio. Io credo che l'errore si possa evitare facendo attenzione a chi si ha davanti. Se davanti abbiamo una persona che si pone come una donna, come femminile, o viceversa, come maschile, io do per scontato che il rapporto deve essere secondo il genere di chi abbiamo davanti, quindi il transgenere, che dir si voglia. Molti si ostinano a riferirsi sempre comunque al maschile, nonostante davanti sia una persona con segni chiari, espliciti, che rimandano al femminile o viceversa, come dire. È più facile comunque, come dire, quando si ha davanti trans donne, ecco. C'è questo maschile di fondo che ricorre, no? Come nella fattispecie, quasi parlano dei trans, cioè già quello, e questo lo usano non come dire persone che non hanno gli strumenti, ma i giornalisti che di strumenti dovrebbero averne. Quindi i trans, non si è capito da questi i maschili da dove lo traggono, ecco. Ora una domanda che a noi è molto cara e che rivolgiamo a molti dei nostri ospiti e delle nostre ospiti. Tu ti definisci femminista? Cos'è il femminismo per te? Allora, io non mi definisco femminista, io sono femminista. E ho 60 anni e, come dire, arrivo dall'attivismo degli anni 70, dove e quando il femminismo era forte, era intrecciato, era trasversale a tutte le esperienze politiche e collettive. Il femminismo ha segnato e ha fatto la differenza tra un prima e un dopo. Per me, che sono attivista trans, prima gay e insomma in diversi contesti, il femminismo ha fatto la differenza. Io mi sento parte, e se non figlia, del femminismo, ma chiaramente con i distinguo, non di tutto il femminismo, perché purtroppo all'interno del femminismo c'è una parte, una frangia, non so come definirla, insomma un'area molto molto chiusa, che a mio avviso ha poco, nulla a che vedere col femminismo che io considero storico, di liberazione, di autodeterminazione, di rivoluzione del corpo e dei corpi, e che invece ripropone quella cultura binaria, patriarcale a mio avviso, anche nei modi e nelle modalità di confronto. Oggi sta diventando molto molto visibile, molto molto attuale, e prova ne è delle posizioni molto dure, molto rigide che questo femminismo ha preso nei confronti di tutta una serie di questioni che riguardano l'autodeterminazione. Ora, se autodeterminazione deve essere, non può non si può dire quale è quella giusta e quale è quella sbagliata, quella che va bene o quella che non va bene, anche perché in questo periodo storico non c'è un dibattito, non c'è riflessione, non c'è approfondimento. Quindi lanciare questi anatemi significa solo, come dire, darsi la zappata sui piedi, peggiorare la situazione e con conseguenze, come dire, negative, non solo per noi, ma in generale, proprio in genere, perché i discorsi devono avere una loro logica, ecco, e a mio avviso questa logica non c'è. Questo discorso lo approfondiremo, ma prima lanciamo un nuovo brano degli XX, Fiction. Fiction, when we're not together, mistaken for a vision, something of my own creation. I wake up alone, with only daylight between us. Last night the world was beneath us, tonight comes too long. Were we torn apart by the break of day? You're more than I can believe, whatever come my way. Siamo tornate in studio, stiamo parlando di transfobia e femminismo con Porpora Marcasciano. Ora, esiste un tipo di femminismo caratterizzato da transfobia, soprattutto da transmisoginia, tanto che queste femministe vengono definite femministe TERF, Trans Exclusionary Radical Feminism. Ora Porpora, ci aiuti a capire perché la relazione tra femminismo e movimento per i diritti delle persone trans può sembrare a volte complicata. Io non generalizzerei e, come dire, riporterei il discorso nei suoi termini e nelle sue proporzioni, perché questa, diciamo, mancanza di comunicazione è relativa e non riguarda nel suo complesso il femminismo, ma alcune frange, tu dicevi appunto, come dire, molto radicali, estreme, ma che a mio avviso poi radicali estreme non sono, perché io ho rapporti molto forti, molto profondi con compagne femministe, anche separatiste, e posso garantire che questi discorsi sono fuori da quella logica. Questa logica riguarda piuttosto quelle, diciamo, quelle frange del femminismo della differenza, no? Che si rifà sempre e comunque alle categorie che io penso siano del vetero patriarcato, dell'uomo donna, e tutto il resto non, come dire, non c'entra. Sono le femministe, come dire, esclusiviste, cioè essenzialiste, che fanno più rumore del resto. A mio avviso, come dire, delle contrapposizioni ci sono state, ma non tali da creare problemi, ecco. All'inizio, e parlo degli anni 70, 60, 70, è chiaro che ci confrontavamo con delle contraddizioni enormi, perché prima c'era un vuoto storico, e di conseguenza le domande erano tante e non sempre c'erano le risposte. Però il femminismo comunque ha aperto delle questioni, ha aperto delle domande importantissime, a mio avviso, tuttora aperte, tuttora che creano dibattito o riflessione. Riportare tutto a quel femminismo, secondo me, è sbagliato, ma sarebbe anche dargli troppa importanza. Io non, come dire, preferisco pensare al femminismo che mi ha dato, il femminismo che ci ha dato e continua a darci, e non a quello che ci sottrae, ecco. Quindi questo ci rinfranca. Ci sembra di capire che un nodo cruciale sia la questione dell'identità, e in particolare dell'identità di genere, tant'è che l'acronimo del MIT è Movimento di Identità Transessuale. Quindi volevamo capire qual è la riflessione attuale sull'identità trans all'interno del Movimento per i diritti delle persone trans. Intanto noi abbiamo cambiato il nome finale, cioè quel transessuale l'abbiamo trasformato in trans, perché ci sembra, diciamo, più comprensivo e più includente, perché è neutro e abbraccia tutte le varianze di genere, perché ultimamente si parla di varianze, si parla di fluidità di genere, ma non solo in ambito movimentista, anche in ambito scientifico. Questo perché si riconoscono tante sfumature, tante esperienze, tanti percorsi che non riescono a essere concentrati in una categoria esclusiva ed escludente, perché poi le identità hanno questo, no? Che quando non rientri, come le esclusa, parole non bastano. Non bastano, assolutamente. Le dobbiamo ancora inventare. Perché noi siamo reduci da una storia secolare che ci ha sempre esclusi, ci ha negati e negate. E negandoci col vocabolario proprio. Quindi non possiamo avere la pretesa di aver risolto e aver capito, compreso tutto da più o meno 40 anni, 50 anni di storia, ecco. Ci abbiamo ancora molto molto da fare in questo senso. Tu prima dicevi: io voglio ricordare, voglio pensare al femminismo per quello che mi ha dato, giustamente. Quindi vogliamo concludere con un discorso e una nota positivi. Come possiamo integrare la questione dei diritti delle persone trans in un approccio femminista includente e non escludente? Ma intanto, riprendendo una prassi femminista, è fondamentale del femminismo quello del partire da sé e della narrazione. Io penso che le narrazioni, le nostre, quelle trans, sono strettamente legate, intrecciate con quella delle donne, perché il genere, la categoria del genere, la questione di genere ci riguarda tutte, e perché tutte siamo state escluse, chi più e chi meno, tutte siamo state annullate da quel patriarcato, e quindi il genere e la trasversalità, ecco, aggiungo questo termine, questo concetto di genere, è essenziale per intanto per avere gli attrezzi di interpretazione e poi per smontare chi ci ha sempre annullato. Quindi il confronto e aggiungo l'approfondimento che ultimamente è venuto a mancare con il sopravvento dei social, ormai tutto è virtuale, manca quella fisicità che ci ha sempre caratterizzato, cioè il corpo, il confronto. A mio avviso ci deve essere sempre e comunque. Quindi io mi auspico che da queste contraddizioni, perché tali sono e non contrapposizioni, possa nascere ci possa essere crescita e arricchimento reciproco, collettivo anzi, di tutti e tutte. Oggi si sente parlare di transfemminismo. Ti piace come termine? Il termine mi potrebbe piacere, uso il condizionale, se ci fosse una riflessione, un approfondimento, un confronto che non c'è. Io sono transfemminista, mi ci sento da sempre. Però vedo e noto come il termine, come tanti altri, poi diventa molto diafano, molto, come dire, che non c'entra, anzi disperde le questioni, non le confonde. A mio avviso, quando c'è una proposta di pari passo, ci deve essere un approfondimento, un confronto, un dibattito. Ce n'è poco, secondo me, e quindi ogni termine, ogni concetto, ogni nuovo passo avanti ha bisogno di tutto questo. E parlando di dibattito, noi vorremmo stimolare un dibattito nelle nostre ascoltatrici, nei nostri ascoltatori, quindi ricordatevi che per qualsiasi domanda, per qualsiasi commento potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Frequenze Sui Generis. Porpora, volevo farti un'ultima domanda. Abbiamo parlato degli errori che non sono da fare nel linguaggio e appunto tu hai evidenziato di come anche persone formate, in realtà formate a parlare di questi temi, non sono, no? Spesso ritroviamo tanti errori nel giornalismo. Ma se una persona che su questi temi sa poco e niente volesse avvicinarsi, tu hai dei consigli di lettura, ad esempio, da dare, o anche filmografia? C'è qualcosa che consiglieresti a chi vuole approcciarsi a questo tema? Ma intanto di passare in sede da noi al MIT in via Polese 22, dove sicuramente si comprenderà e ci saranno i modi per capire meglio. Rispetto alle letture, io consiglio sempre e comunque Elementi di critica trans, che è, diciamo, l'estratto di un seminario che abbiamo tenuto in Toscana, di approfondimento proprio sul linguaggio, sul vissuto trans e sui limiti del linguaggio, ecco. Quindi quello assolutamente lo consiglio, da Manifesto Libri. E poi un po' di autocelebrazione mia, un po' di autopromozione, il mio ultimo testo, insomma, che si chiama L'aurora delle trans cattive, che è un po' la storia, la narrazione, la descrizione, l'analisi del movimento, del mondo dell'esperienza trans. Beh. Bene, Porpora, noi allora ti ringraziamo per essere state con noi, grazie anche per questi ultimi consigli. Anche noi appunto consigliamo a chi sta a Bologna, insomma dalle parti di Bologna, di venirvi a trovare al MIT. E ricordiamo, come ha già detto Viviana, che questa puntata, come tutte le altre puntate, potrà essere riascoltata in podcast sul sito di Radio Città Fujiko, che potete seguire anche dalla nostra pagina Facebook, Frequenze Sui Generis. E quindi non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo lunedì, sempre dalle 14.30 alle 15. Go slow.